Radio 24. Libera la voglia di fare. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, bentornati. Nessuna è perfetta, vi aspetta con il suo mix di cose che non sappiamo sul mondo professionale delle donne, con personaggi che ci raccontano quello che stanno facendo e con la nostra Love Coach. La novità di questa stagione di Nessuna è perfetta, che affianca i coach che noi abbiamo sempre avuto sin dall'inizio per essere un po' più addentro alle, diciamo, dinamiche professionali, e la Love Coach invece si occupa dell'anima, delle pieghe più intime della nostra vita. Nessuna è perfetta, lo sapete, parla di donne e lavoro, e oggi è una puntata speciale perché vi raccontiamo sei storie, le storie di sei donne che hanno ottenuto un premio molto importante per l'imprenditoria femminile, il premio Gamma Donna, un riconoscimento che viene attribuito a giovani e a donne che si sono distinti per aver introdotto delle innovazioni sia nel mondo dei prodotti che in quello dei servizi all'interno delle loro aziende. Le sei finaliste del premio Gamma Donna, che ci raccontano la loro storia, e saranno poi presenti al forum Gamma Donna il 16 novembre nella sede del Sole 24 Ore. Ma prima di parlare di progetti, di energie, di donne, beh, è il momento di parlare col nostro agente provocatore di questa domenica, che è uno scrittore che ci fa entrare nelle atmosfere dark dei suoi romanzi seguitissimi, vendutissimi, e che ora ci farà entrare in queste atmosfere anche al cinema. E dunque, benvenuto, buona domenica, Donato Carrisi, lo scrittore di thriller italiano più venduto all'estero. Pensate, 3 milioni di copie dei suoi libri sono vendute nel mondo. E 10 anni dopo il suo esordio da scrittore con Il Suggeritore, ha deciso di fare anche qualcosa in più. Ha debuttato ormai come regista con La ragazza nella nebbia. Ragazza nella nebbia, che è nelle sale dal 26 ottobre. Il cast è di quelli che piacciono moltissimo a voi e a noi, come dire, consumatrici di film, perché ci sono Toni Servillo, che è notoriamente un beniamino delle spettatrici italiane, non solo, Alessio Bonni e Jean Reno, il misterioso francese amatissimo da noi oltre che in Francia. La storia è proprio uscita dalla creatività di Donato Carrisi ed è ambientata in un paese molto nebbioso, appunto, in una montagna molto oscura. E lì chi c'è, Donato Carrisi? Ci sono tanti mostri. In realtà il film è la storia di un mostro che si nasconde nella nebbia, però forse i mostri sono più di uno. Non ci sono innocenti in questo film, probabilmente solo la presunta vittima. Ecco, mi piaceva raccontare una storia del male radicato, di come il male riesce a mettere radici anche in una piccola comunità isolata che si sente protetta, in qualche modo una comunità in cui tutti conoscono tutti e tutti credono di conoscere i segreti di tutti, ma c'è un unico grande segreto che poi si frammenta. Mi auguro che il pubblico voglia rimettere insieme i pezzi del mosaico, insomma, per arrivare alla soluzione finale. Ma queste crepe, no, che possono fare molto male, insinuandosi dentro di noi, possono persino portare ad uccidere, chissà perché si ritrovano più spesso, almeno nella narrativa, ma non solo, anche nella cronaca purtroppo, nelle piccole comunità. Come mai? Ma perché è più deflagrante. Quando accade un fatto di sangue, quando il male comunque si manifesta in una piccola comunità, è chiaro che c'è un effetto, un'onda d'urto che travolge tutti, perché appunto ci si conosce tutti ed è inevitabile che tutti si siano in qualche modo complici di questo male, anche in piccolo. Dunque, c'è una figura che è particolarmente diciamo amata da chi ama appunto i thriller di Carrisi, che è l'agente Vogel. Che tipo è questo Vogel? Ma è un poliziotto sui generis, nel senso che non indaga servendosi del DNA, delle impronte digitali, della polizia scientifica, no, non gli importa assolutamente. Lui indaga servendosi dei media. In pratica riesce ad evocare il caso di cronaca, convoca i media e individua il mostro e convince tutti che il mostro è il mostro, anche se poi in realtà non ci sono prove, ci sono indizi, è tutto basato sulla suggestione. E in questo caso lui individua un mostro che Alessio Boni e convince tutti a rovinargli la vita. Però e qual è la motivazione che porta a una persecuzione di questo tipo? Che cosa muove? La vanità, prima il narcisismo, di tutto. No? Il fatto ma di sì, sì. Ma sì, la vanità è sicuramente un grave ostacolo per la giustizia. Guarda, io ti dico questo: negli ultimi 30 anni non è mai capitato che una volta individuato il colpevole di un fatto di sangue, quindi massacrato sui giornali, poi gli inquirenti abbiano cambiato idea. Magari poi il mostro in questione, sbattuto in prima pagina, è stato assolto dopo diversi gradi di giudizio. Forse solo il caso del mostro di Firenze, ecco, dove il mostro stesso interveniva per smentire gli inquirenti, colpendo ancora e quindi scagionando quelli che venivano di volta in volta arrestati, ma da allora proprio non c'è stato più un caso di innocenza acclarata nel corso dell'indagine. Posso chiederti, per esempio, qual è la tua sensazione di scrittore di thriller? Per carità, nessuno si impanca a giudice, ci mancherebbe, però rispetto a uno dei casi di cronaca più noti di questi anni, vale a dire l'omicidio della ragazzina e il fatto che sia in carcere ormai da anni questo Bosetti, che è il suo presunto omicidio. Beh, ormai c'è una sentenza, diciamo. Sì. No, non è tanto presunto, sì, però io sono sempre... Non è più tanto presunto. Sì. Beh, il caso di Yara Gambirasio, per esempio, è stato veramente un caso che ha segnato anche una svolta nel modo di raccontare questi piccoli drammi di provincia. Anche in questo caso, ecco, il mostro non ha mai avuto la possibilità di difendersi. Ecco, alcuni aspetti della vita di Bossetti, ora al di là della sua colpevolezza, sono stati raccontati come se fossero sinonimo di colpevolezza, ecco, già acclarata. Per esempio il fatto che lui frequentasse i solarium, che facesse le lampade. La prima cosa che ci hanno detto è: ah, fa le lampade 3 volte a settimana. Come se fosse, no? Sì. Un indizio della sua mostruosità. Ecco, anche la cosa più banale si può trasformare in un indizio di colpevolezza quando il pubblico, l'opinione pubblica, i media viene manipolata. Viene manipolata, certo. Tutti noi possiamo essere manipolati da chi è bravo a manipolarci, se ci stiamo. E Donato Carrisi, nella chiusura di questa nostra chiacchierata, Nessuno è perfetta ce l'ha molto con il multitasking. Sosteniamo che è una cosa che ha rovinato la vita delle donne, la rovina tuttora, però anche tu sei multitasking, scrittore, adesso anche regista. Che cos'è che ti spinge a fare tante cose? Beh, in realtà mi dedico ad una cosa alla volta, ecco, questo è anche utile dire. Multitasking consente la contemporaneità, io invece non sono capace assolutamente, sono molto settoriale, però mi piace variare, questo sì, perché una storia decide da sé qual è la forma con cui vuole essere raccontata, quindi io assecondo semplicemente la storia, tant'è che non mi definisco uno scrittore, non mi definisco un regista, preferisco definirmi un narratore. Un narratore di storie. E noi questa bellissima storia ambientata in una montagna oscura non ce la perderemo e andremo a vedere La ragazza nella nebbia al cinema con Tony Servillo, Alessio Boni, Jean Renaud per la regia di Donato Carrisi. Grazie Donato Carrisi per essere stato con noi a Nessuno è Perfetto. Grazie, grazie, grazie a voi. Nessuna è perfetta. Bentornati, bentornati a Nessuna è perfetta. E dopo aver parlato con Donato Carrisi del suo La ragazza nella nebbia, rimaniamo in un'atmosfera noir e rimaniamo nell'Italia dei piccoli centri, comunque rimaniamo nel lato oscuro della provincia. Questa volta ce ne andiamo al sud, il lato oscuro della provincia italiana è un piccolo centro del Cilento, dove la regista Nadia Baldi ha inserito una storia che vede come protagoniste due donne forti, sicure di sé, prepotenti, belle e spietate. Il film si chiama Veleni e la protagonista è Tosca d'Aquino. Di solito sei sempre in una dimensione sorridente, luminosa, eccetera, invece adesso in Veleni è tutta un'altra storia, c'è cioè un'altra Tosca. Guarda, io sono molto grata alla regista Nadia Baldi, che ha creduto in me per un ruolo veramente insolito, perché come dicevi tu giustamente, in Italia sai un pochino c'è questo problema di essere un po' ghettizzati, allora il fatto che io nasco dalla commedia brillante, che come dici tu ho proprio un modo di essere, sai, il fatto che sono napoletana, solare, sì, non mi chiamano mai per fare dei ruoli assolutamente diversi, ma che chiaramente per un attore è molto divertente, cioè fare proprio questo mestiere. Beh certo, è sfidante, no? Passare brava, dalla commedia bravissima a un ruolo noir come questo che hai in Veleni. Ci racconti per cosa fai, cosa sei in Veleni? Il film diretto appunto da Nadia Baldi. Bisogna inquadrare il periodo storico, quello è molto interessante perché stiamo parlando negli anni 50, un piccolo paesino dove praticamente non ci sono più uomini perché un sì, po' la guerra le ha uccisi, proprio un po' l'immigrazione, non ci sono più. E quindi queste due sorelle con una bravissima Gea Martire, che fa la parte di mia sorella, vabbè, chiaramente sono le donne molto ricche, benestanti, questo dà loro un grande agio di viaggiare, di vestirsi in maniera veramente, sono sempre elegantissime e hanno assolutamente una visione della vita, intanto non per gli anni 50, molto moderna, cioè vogliono fare la loro vita, vogliono fare tutto quello che desiderano fino ad arrivare addirittura all'omicidio, cioè se una persona non rientra nei loro canoni, se non le lascia libere la devono eliminare. Beh, intanto anche qui un'atmosfera noir, ne parlavamo prima con l'autore e il regista di un altro film noir che è La ragazza nella nebbia, e qui Veleni è l'Italia di nuovo di un piccolo centro, questa volta nel sud, e queste donne che si sentono diverse. Donato Carrisi è proprio uno scrittore di thriller, cioè io lo adoro, sì, ho letto tantissimo suo e La notte non dormo, questa è un'altra tipologia, questo è un noir assolutamente sai, piccolo proprio, con dei fatti che succedono appunto come dicevi in un piccolo paesino, molto sensuale, perché queste due donne involontariamente hanno un modo di fare assolutamente sensuale, ma alla fine estremamente ironico, si ride, e involontariamente comico, voglio dire. Quindi è un quindi mix è un noir che strappa anche il sorriso. E, sì, assolutamente. E tu come hai fatto ad ambientarti in questa Italia di provincia degli anni 50? Ma guarda, intanto è stato facile perché mi hanno portato nell'entroterra del Cilento, dove devo dirti ci sono questi paesini deliziosi, non c'ero mai stata, che sembrano proprio rimasti fermi assolutamente, con all'improvviso questi palazzi storici, cioè non c'è nulla, e poi vedi questi palazzi meravigliosi con affreschi, e quindi c'è già una struttura, voglio dire, che come arrivi già ti sembra di essere negli anni 50. Poi ci sono questi costumi bellissimi di Carlo Poggioli, che è il costumista solito, diciamo, lavorare con Sorrentino, che veramente, sì, secondo me ha fatto questi costumi anni 50 di un'eleganza. Ci sei molto voluto... divertita, eh? Sì, molto, molto, molto, guarda, veramente molto, perché poi aspetta, tutta la prima parte del film sono bionda, non mi è mai successo. Cioè, quindi una sfida, sei in un noir, sei bionda e vivi in una dimensione anni 50. Che vuoi di più? Che per un cosa... attore il massimo. Guardi dentro. Senti Tosca, ma che donne emergono dal vostro film Veleni? Sono donne perfide per insicurezza? Sono donne troppo sicure perché appunto ricche in un paese Guarda, di gente povera? Questa è una bellissima domanda. È una bellissima domanda che mi stai facendo, ma se loro non arrivassero addirittura all'omicidio, secondo me, cioè, sono due donne fantastiche, sono una sorta di Thelma e Louisa, no? Antesignane di un femminismo che veramente negli anni 50 non esisteva, perché insomma fare proprio tutto quello che desideri fare con gli uomini, con le donne, con i figli, con la vita, cioè loro sono assolutamente libere e scevre da qualsiasi tipo di legame, capito, anche religioso, non hanno paura di niente, sono intelligenti, colte, anche questo chiaramente, e la donna negli anni 50 spesso in questi paesini non aveva neanche l'opportunità di studiare, quindi è chiaro che nel momento in cui hai soldi, hai cultura, hai tutto, poi chiaramente non sono perdonabili, perché arrivano poi a fare delle cose assurde, chiaramente, però l'impatto sono estremamente simpatiche queste due sorelle. La regista Nadia Baldi insomma, chi con voi ha creato questi due personaggi? Si è ispirato, sì, a qualche storia vera? Guarda, io credo che ci fosse un soggetto vero, che ci sta. Spesso sentiamo anche storie, no, di questa tipologia, quindi credo che siano partiti sicuramente da un soggetto vero e poi dopo romanzato e scritto. Anche la scrittura è molto bella, particolare, ha partecipato anche Ruggero Cappuccio, che è un bravissimo scrittore, un bravissimo autore, quindi insomma io credo che ci siano tutti gli ingredienti per trovarsi di fronte a un film assolutamente insolito e assolutamente godibile, veramente molto molto carino. E non ci perdiamo Tosca d'Aquino in questa dimensione di predatrice di provincia nell'Italia degli anni 50. Sono molto curiosa di vedere, grazie, questa nuova dimensione al cinema con Veleni. Grazie Tosca d'Aquino. Grazie, buona giornata. Buona domenica, grazie. Grazie. Nessuna è perfetta. Eccoci di nuovo, Nessuna è perfetta, come avevo preannunciato. Torna anche quest'anno il premio Gamma Donna, è un riconoscimento, lo sapete, riservato all'imprenditoria innovativa di giovani e donne. E ci sarà una rosa di 6 finaliste che aprirà la 9ª edizione del Gamma Forum, cioè il forum nazionale dell'imprenditoria femminile e giovanile. Il forum si terrà, è previsto a Milano il prossimo 16 novembre nella sede del gruppo 24 ore e proprio in partnership con il Sole 24 ore e con Radio 24. C'è il patrocinio della Regione Lombardia, della città di Milano e anche del Comitato Nazionale UN Women. Quest'anno il forum Gamma Donna si concentra su un tema del quale talvolta ci occupiamo anche noi qui a Nessuna è perfetta: intelligenze e competenze nuove per fare impresa nell'era digitale, perché sapete che tutto sta cambiando, alcune degli skills, delle qualità che erano richieste prima per lavorare in certe aziende serviranno meno, perché ci saranno delle intelligenze artificiali che faranno al nostro posto alcune cose, ma noi adesso andiamo a vedere chi sono le 6 finaliste che questa domenica sono con noi a Nessuna è perfetta, e chiederò a ciascuna di loro di raccontarci il suo progetto, sia pure in pochi minuti. La prima è Chiara Burberi, presidente e amministratore delegato della Star Rock. Il tuo progetto? Beh, Il mio progetto innanzitutto è redoc.com, una piattaforma di didattica digitale dedicata alle materie STEM, alle materie scientifiche, a partire dalla matematica. Come funziona? Okay. Offre lezioni in forma di video, immagini e esercizi gamificati, quindi un grande gioco online, per far appassionare alla matematica, a tutte le materie scientifiche, i ragazzi nei loro 13 anni appunto di scuola. Funziona anche la teoria in forma di brevi video, cartoni animati, video esplicativi di esercizi svolti, mappe mentali, qualunque tipo di modalità va bene per questi ragazzi, basta che sia breve, concisa e forte nelle immagini, e gli esercizi sono gamificati, quindi è un grande gioco online che ha tutti i canoni del videogioco. Quindi I ragazzi però devono avere un tablet, ciascuno di loro deve avere un tablet per poter possono fare queste cose a scuola. Un tablet, uno smartphone, quello che vogliono, è responsive ed è multi-device, quindi in piena libertà. Le scuole tipicamente lo usano alla LIM, perché io consiglio tra l'altro alle scuole di utilizzarlo a gruppi, non individualmente. Poi individualmente fanno i compiti a casa, ma a quel punto prendono lo smartphone di mamma o papà se non ce l'hanno, piuttosto che un tablet, piuttosto che un qualunque PC. Grazie a Chiara Burberi, presidente e AD della Star Rock. La matematica serve. La nostra seconda ospite è Francesca Fedeli. Benvenuta Francesca, presidente e cofondatrice di Fight the Stroke con Roberto D'Angelo. Che cos'è Fight the Stroke? Fight the Stroke è un'associazione di promozione sociale che è nata per proteggere i diritti dei giovani sopravvissuti all'ictus e delle loro famiglie. Ecco, Fight the Stroke aiuta chi è sopravvissuto a un ictus. E c'è una fascia di età di cui voi vi occupate, perché e che cosa fate per loro? Sì, chi è sopravvissuto a un ictus in età molto precoce, che vuol dire che può essere stato in età prenatale fino a età pediatrica, andando avanti fino ai 35 anni, perché i fattori di rischio che riguardano, che impattano questa categoria di persone, sono diversi rispetto a quelli che colpiscono l'adulto. Che cosa fate per loro? Per loro abbiamo creato una comunità, per cui facciamo soprattutto community engagement, ma ci siamo messi in gioco sviluppando un programma di riabilitazione che si chiama Mirrorable e che consente a questi bambini che hanno perso abilità motorie di recuperarle semplicemente guardando dei video. Quanti bambini e ragazzi partecipano al programma di Fight the Stroke? Noi oggi abbiamo aggregato una comunità soltanto in Italia di circa 700 genitori, ma il mercato globale dei pazienti impattati da questa patologia è di circa 3 milioni e mezzo di bambini in tutto il mondo. Come mai, Francesca Fedeli, è nata questa idea di creare Fight the Stroke, che è una società di profitto? Impresa sociale, e come spesso accade nelle imprese sociali, è la motivazione personale che poi è il driver principale per sviluppare una soluzione a un problema. Nel nostro caso appunto è stato nostro figlio Mario, che a 10 giorni dalla nascita ha ricevuto appunto questa diagnosi di ictus perinatale. E 6 anni fa, anche solo cercando su Google possibilità di terapie, evidence-based... Non avete trovato nulla, quindi vi siete inventati Fight the Stroke. Bene, grazie a Francesca Fedeli. Spero che tornerai a raccontarci come sta andando il progetto, che sarà sempre più condiviso. Buona domenica. Grazie a voi. Buona domenica, Sibilla Ricciardi, CEO di Into Law, servizi legali, che spesso significano ore fatturate e mettono ansia a chi deve ricorrere ai servizi legali costosissimi. Che cosa fa Into Law? Buongiorno a tutti. Into Law fornisce risorse legali in outsourcing per le aziende, con lo scopo di fare un ponte tra le necessità dell'azienda e lo studio legale. Nasce come realtà che vuole portare, diciamo, un po' a tutte le aziende che non possono permetterselo un legale interno, perché il mio background è da legale interno, e che vuole dare anche agli studi la flessibilità di poter avere delle risorse su specifici progetti quando le risorse di studio non sono sufficienti. Quindi voi ricorrete a legali freelance? Sì, noi nasciamo in realtà da una dal, principio di non voler vedere risorse sprecate. Molte avvocate che si occupano ora della famiglia ma possono lavorare come freelance per Intulo. Quante donne avvocate lavorano in questo ruolo con voi? Siamo in 20. Io non userei la parola freelance perché noi ci piace sentirci una squadra, quindi il Intulo è in realtà un contenitore che vuole far crescere una realtà di cambiamento più che lasciare gli avvocati ognuno per sé, quindi vuole essere un quali competenze sviluppate nel campo legale naturalmente? Principalmente le nostre competenze sono delle competenze di avvocati interni, cioè sono tutte persone che sono cresciute nell'ambito dell'azienda e che quindi hanno un taglio molto business a quello che è il punto di vista legale, quindi che hanno una visione delle necessità. Quindi contratti, questioni di lavoro, per capirci, fare qualche esempio. Tutto ciò che riguarda il business, quindi contrattualistica, allo stesso tempo revisione dei problemi di data privacy, data security, aiutiamo anche le aziende a collezionare quelli che sono i documenti che richiedono lo studio, aiutiamo una domanda, perché Intulo può permettersi tariffe meno costose di quelle che un altro grande studio legale proporrebbe? Perché le nostre risorse sono risorse che hanno fatto una scelta tra quello che è la loro vita personale e quello che è il mondo del lavoro e quindi sono disposte a avere un guadagno leggermente inferiore ma allo stesso tempo a non perdere la loro libertà di poter essere anche delle persone oltre che degli avvocati. Grazie a Sibilla Ricciardi, CEO Intulo, e grazie per essere stata con noi e averci raccontato questa interessante divisione legale. Buona domenica. Grazie a voi. Ed ora è il turno di Catriona Wallis. Wallis è CEO e founder della Colto Giochi Digitali Educativi per Bambini. Che giochi sono, Catriona? Buongiorno Maria, sono giochi educativi mobile per i bambini dell'età di prescolare per imparare le forme, i numeri, l'alfabeto. Di recente facciamo anche i puzzles che sono molto importanti per i bambini per i critical thinking skills. Quindi noi abbiamo 8 applicazioni sull'App Store e anche Google Play. Quest'anno e l'anno scorso abbiamo formato dei partnership con delle marche più importanti del mondo globale per i bambini, che è Nickelodeon e anche Highlights for Children, che sono case editrice, certo, della rivista per i bambini. Catriona, negli Stati Uniti. Che formazione hai? Come ti è venuta questa idea di fondare un'azienda che si occupa di giochi digitali ma educativi? Tu sei un ingegnere, che storia è la tua? Ok, io ho una laurea dall'Australia, sono australiana, che si sente, sì, dall'accento, che in Australia ho avuto una carriera di business development e poi in Italia avevo insegnato per 8 anni prima di avere i miei bambini. Mm-hmm. E quindi quando i bambini erano piccoli ho visto che l'iPad è uscito e ho visto che era un'esperienza così intuitiva per i bambini di navigare sul touchscreen, perché era la prima volta che avevamo un touchscreen nella casa. E quindi combinando sia la mia esperienza come insegnante dei bambini e sia la mia esperienza con una carriera di business, avevo questa idea che dovevamo usare questo touchscreen per insegnare i bambini. Ho visto una mancanza sul mercato dei giochi che sono proprio stimolanti per i cervelli di bambini piccoli. Noi facciamo per bambini da 2-6 anni, quindi secondo me, quando i genitori regolano il tempo che i bambini hanno per screen time, questi giochi educativi possono essere molto utili per lo sviluppo del cervello, soprattutto nella categoria della logica e anche la memoria e anche l'attention span. Questo è davvero interessante perché i nostri ragazzi hanno dei deficit di attenzione che creano poi dei problemi a scuola. Grazie a Catriona Wallace, CEO e founder dell'Accolto Giochi Digitali Educativi. Betta Maggio, benvenuta, CEO di U-Earth, che si occupa di biotecnologie, di purificazione dell'aria. Come è nata questa azienda, Betta? Questa azienda è nata per risolvere un problema che è la qualità dell'aria. Io ho uno zio negli Stati Uniti che è uno scienziato, è diventato un allergico cronico, un ingegnere chimico, e mentre stava lavorando per il governo degli Stati Uniti ha deciso di sviluppare una macchina che con le biotecnologie, che erano la sua specialità, potesse attrarre e digerire in maniera completamente naturale tutti gli inquinanti dell'aria per creare delle zone di aria pulita. E da qui, dopo 20 anni, io ho preso in mano questa invenzione, diciamo, e ho deciso di farla diventare, tipo 8 anni fa, una tecnologia, un prodotto essenzialmente per le aziende. Voi installate che cosa nelle aziende? Cioè, in ogni area, penso alla redazione di un giornale o di una TV, ci sono degli enormi luoghi condivisi, no? Dove si addensano decine e decine di persone. Voi cosa fate per purificare l'aria in una specie di grande concentrato di bacilli, no? Come quanto ci sono tante persone insieme? Noi abbiamo un sistema molto semplice, perché è una sorta di bioreattore che è plug and play, praticamente è una sorta di robottino con la testa rotonda, dove noi mettiamo acqua, la attacchiamo a una spina, lo mettiamo con un certo dimensionamento, e questo sistema comincia ad attirare intorno a sé, creando delle zone di un'area di 100 metri quadri, aria pulita. Tutto quello che va dentro le macchine viene digerito. Contestualmente mettiamo un sistema che si chiama U-Monitor, che monitora i livelli della qualità dell'aria ogni 5 minuti. Quindi questo ambiente viene poi denominato Pure Air Zone e ha un logo specifico che, come il Wi-Fi, ci piacerebbe che la gente imparasse a identificare. Quindi quando entra in dei locali Pure Air Zone ci piacerebbe dire come sceglie cosa mangiare, cosa sceglie cosa bere, può anche scegliere cosa respirare, quindi certo, frequentare degli uffici, delle palestre, delle scuole, degli ospedali. Dove c'è questo logo che dice l'aria è stata purificata. Grazie Betta Maggio, è CEO di U-Earth. Grazie a voi. Grazie. Ed è il momento della nostra ultima protagonista, finalista del premio Gamma Donna, ed è Margherita Vizio. Margherita è amministratore delegato della X-Med. Benvenuta Margherita. Che cosa fa l'azienda X-Med? Noi siamo un'azienda di produzione di dispositivi medici. Il nostro core business principale è legato a delle guaine per strumenti endoscopici. Praticamente noi creiamo questo dispositivo, che è una guaina che viene posizionato sopra lo strumento endoscopico. Strumento endoscopico, chiariamo, è quella sonda che va a vedere se uno ha un problema. Esatto. Spiega. Una serie di esami, tipo nell'ambito dell'ottorino, la nasofaringoscopia, quindi quello strumento che viene messo attraverso le narici e che permette al medico di ottorino di E la guaina dove la mettete voi? La guaina viene posizionata sopra lo strumento e permette di gestire la sicurezza delle cure. Praticamente cosa succede? Questi strumenti non sono strumenti monouso, quindi sono pluriuso, dovrebbero subire un processo di disinfezione o di sterilizzazione. In questo modo, con l'utilizzo della guaina, che è una barriera assoluta, noi garantiamo la protezione totale per il paziente e garantiamo la sicurezza anche dell'operatore, che quindi permettiamo di prevenire tutto quello che è a rischio biologico. Ma la guaina viene poi buttata? La guaina è monouso, viene certo buttata. Tu hai un passato da infermiera, la tua esperienza, diciamo, nella vita degli ospedali italiani ti è stata utile per creare insieme a tuo marito questa azienda. Esatto, io sono un'infermiera, mi sono occupata per anni di prevenzione infezioni e da lì, quando ho smesso il mio percorso come infermiera, ho portato la mia esperienza in azienda e perfetto, da lì è nata l'idea di fare qualcosa in questo senso. Grazie, buona domenica a Margherita Vizio. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. Grazie. Donne straordinarie, avete sentito che storie molto molto interessanti e sono contenta di aver appreso insieme a voi cose che ignoravo. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I campioni dello sport, le loro imprese, le loro storie, i loro segreti. Scopriteli a Olimpia, la città dello sport, quest'anno con un ospite d'eccezione. Sono Stefano Tirelli. Seguiteci qui a Olimpia, alla scoperta delle menti dei campioni. Sono Dario Ricci. Vi aspetta Olimpia, miti e verità dello sport. Ogni domenica alle 21, qui su Radio 24. Dai Deborah, racconti la borsa tutto il giorno, dammi un titolo. È meglio il petrolio che sale o il dollaro che scende? È arrivato, se lo sapessi avrei gran soldi in Svizzera, per cui mi servirebbero i tuoi consigli per fare la voluntary disclosure. La voluntary disclosure è meravigliosa, ma ne abbiamo tante di questioni da chiarire agli ascoltatori. Sì, perché non sono temi difficili, noi dobbiamo essere autorevoli e leggeri. Sai, dobbiamo parlare con quella certa autorevole leggerezza. Bravo! Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Tutti i giorni alle 11 su Radio 24. Nessuna è perfetta. Eccoci, questa è l'ultima parte della nostra puntata di questa domenica. Nessuna è perfetta. Chiude con la novità di questa stagione, la nostra Love Coach, che la domenica si alternerà con, o ci saranno tutte e due, con la nostra coach più concentrata sull'aspetto professionale della nostra vita. La nostra Love Coach invece parla di anima, parla del nostro lato più intimo, più personale e siccome abbiamo parlato questa domenica di tanti progetti delle imprenditrici di Gamma Donna e immaginiamo che ci sia un aspetto del quale nessuna è perfetta, continuiamo a parlare sempre, no? Cioè conciliare le aspettative professionali, le ambizioni, perché no, legittime di carriera, con la voglia di continuare a occuparsi della propria famiglia, di essere mamme, di parlare un po' di più con i nostri familiari, con i nostri compagni. Ecco, questa domenica con la dottoressa Elisa Bulgheroni ci concentreremo proprio su un aspetto. Com'è oggi essere mamme? Ciao Maria, ciao a tutti. Iniziare pensando che non devono essere mamme perfette sarebbe ottimo. È un sociale, almeno nei miei 35 anni di esperienza nella mia professione, che sempre mi fa notare di più la ricerca di perfezione delle donne nella loro funzione di madre. Mamme manager. Mamme manager, sì. Mamme che non hanno un tempo quantitativo, in un tempo qualitativo con il proprio figlio, che oltre a essere perfette al lavoro devono essere perfette come donne, devono essere in forma, devono essere depilate, devono essere carine, devono trovare anche degli spazi per viversi e l'essere donne con il proprio marito, compagno che sia. Quindi c'è anche questa funzione di madre che si introduce nella loro vita e quindi anche ancora una volta una ricerca di perfezione, e quindi non essendoci questo tempo qualitativo devono farsi aiutare per poter andare a lavorare, quindi servizi per l'infanzia, le care tate in casa quando non hai la famiglia, tutto diventa un bisogno di controllo anche. La tata è fondamentale, no? Per una donna che in lavora in una città come Milano, sì. E spesso la mamma manager si scopre a dare delle indicazioni alla donna che si prende cura dei propri figli come se fosse una segretaria. Fai questo, fai quello. Sì, la mamma manager sta diventando una manager in tutti gli ambiti della sua vita e anche in quella di madre. Quasi come che questo senso di colpa che si porta di non poter stare con il figlio, di un tempo davvero quantitativo che occorre nella vita di un bambino, fa sì che scelgo delle persone come mamma, scelgo delle persone che se ne occuperanno dei miei figli, ma devo controllare la loro qualità. Non è sufficiente che sia una struttura che si fa carico di pensare alla qualità professionale delle maestre, lo deve fare anche la mamma, deve essere anche la mamma quella che se ne occupa della capacità o di che contesto frequenterà il bambino nel parco. Quali sono i bambini che frequenterà in quella struttura, quali sono le famiglie, quindi avrò anche la tata alla quale telefonerò e darò indicazione di come allevare il proprio figlio. Ed è davvero faticoso, sono donne che non si lasciano andare in un supporto di tutto quello che loro trovano. Ma perdono, dottoressa Bulgheroni, una mamma si sente in colpa se non telefona 2-3 volte al pomeriggio per vedere che cosa fa il bambino, e se non lo facesse magari la tata commette degli errori oppure semplicemente lo lascia davanti alla TV tutto il pomeriggio? Sì, non è sufficiente per tante mamme, non per tutte, già fare una scelta di qualità della persona che se ne occuperà. Cioè io credo che quando decidi di fare la mamma in una città come Milano, in una grande città dove devi avere dei servizi per forza, perché non devi tornare a lavorare alle tue cose, deve esistere una davvero capacità di fiducia e di affidarsi, di fiducia con la persona e affidarsi alla persona che se ne occuperà del tuo bambino se non va alle strutture o alle strutture. Cioè quello che non puoi trasmettere a un bambino è che quello che tu stai facendo per lui non rientra nella tua fiducia e devi controllare ulteriormente alle persone che se ne occupano, perché diventa uno stress terribile per la donna che non la fa vivere con serenità la sua funzione di madre, è uno stress per la famiglia, è uno stress nel rapporto. C'è una storia, un aneddoto che in finale possiamo raccontare, qualcosa che di un rapporto appunto tra la mamma manager essendo mamma, cioè la maternità vista in modo manageriale, che nella tua storia di psicopedagogista ti ha colpito. Ho visto molte storie, ho sentito molte storie e credo di aver sostenuto anche molte mamme a che si potessero rilassare, a che per essere madre occorre essere donna e poi avere una funzione di madre, che è occuparsene della sopravvivenza del proprio cucciolo, del proprio figlio, e poi di avere un aspetto di mamma che è una funzione dove interviene la tenerezza, la compassione. Ma non possiamo arrivare in una perfezione dappertutto, non possiamo essere madre con la testa, non possiamo essere madre con il ragionamento. Io invitato a queste madre a affidarsi, a credere anche nelle risorse del proprio bambino ed essere mamma riconnesse al cuore, riconnesse a un abbraccio d'amore. Qualche abbraccio di più e qualche sì. telefonata isterica di meno. Sia alla tata che alle strutture che si fanno carico. Lo dico perché io anche ero, i mariti. Io ero una mamma di quel tipo lì, facevo 30 telefonate dalla redazione, ma se avessi saputo prima. Dunque c'è sempre tempo di imparare. Grazie Elisa Bulgheroni. I vostri dubbi sono preziosi per noi, i vostri commenti lo sono tantissimo, per cui scriveteci a nessunaeperfetta@radio24.it, fateci sapere cosa pensate di questa puntata su Twitter, io vedo tutto quello che ci arriva sui social media, certe volte rispondo e qualche volta mi viene voglia di dirvi fatevi vivi, scriveteci e raccontateci le vostre storie, così le mettiamo in onda a Nessuna è Perfetta. Buona domenica.